facevi Santelli a Torre, il progetto Santelli a Torre della, di calcio, e guarda caso, deve essere stato notato da quelli della Tricagliari che c'è sempre un antagonismo, e hanno trovato questo del coso, del Varese ne hanno prestato qualcuno. Così, per non scaricarsi bene. Poi quelli della Dinamo sono abbastanza corretti i tifosi, infatti non si muovono i veri tifosi della Dinamo, non li fanno entrare a quelli della Torres a seguire la partita. 21 a 17, stanno giocando da, vabbè, manca il primo quarto, 35 secondi. Se il tuo oltre calcio cosa hai fatto di sport, Antu? Attivo, non ti ho copiato. Ho detto, oltre al calcio, che sport hai seguito? No, io ho sempre fatto più che altro arti marziali. Ah, giusto, me l'avevi detto, quindi sei il piccolo Brucele. Brucele, no, poi ho fatto tiro a segno dinamico, un po' di tutto, quanto sono fatto mancare dietro. Adesso sto facendo, come si dice, sollevamento bicchiere. Sì, sollevamento al peso del bicchiere. Ma tu, se non lo vinci, non ho messa con uno a proposito di sollevare. Perché? Prendi un boccione di acqua o di vino, ci metti un boccione da 2 litri, ci metti, lo riempi di acqua, con la mano tesa, devi tenerlo per più di 3 minuti con 2 dita. Se tu riesci a farlo è una cosa quasi praticamente impossibile, con la mano rigida allungata la mano, il braccio lungo rigido, se riesci a tenerlo più di 3 minuti, provaci tu, io dico dopo un minuto non ce la fai più, e poi se vuoi scommettere soldi fallo con qualcuno. Ah, non ce la fai. Non ce la fai, con 2 dita, col pollice e con l'indice, devi allungare il braccio lungo proprio teso, perpendicolare al coso, al torace, dritto, proprio rigido, inizi prima a vibrare, a tremare, alla fine devi mollare, a chi non ve la fai più. 2 litri soli. Come? 2 litri, solo 2 litri. 2 litri di acqua, mettici 2 litri di acqua nel boccio, non siete neanche in terra per il vino, allunghi bene le braccia, lunghe, rigido, tu ti metti in piedi e metti a verticale, perpendicolare al torace, il braccio lungo, disteso lungo, proprio dritto, né in alto né in basso, perché se lo metti verso l'alto ti aiuti, proprio verticale lo devi mettere, cioè parallelo al pavimento, e lo tieni con 2 dita e vedi quanto ci riesci, se ci riesci un minuto sei bravo, e la scommessa devi stare 3 minuti. Adesso ci provo, dai. Però ti mangi un buon di 12 passi, se sei bravo. Io l'ho visto uno con la faccia da Giumano Muri. Te la conosco, è famosa. Ma ne conosco, scommesse da bar ne conosco, eh. Come? Quelle si chiamano scommesse da bar. Se tu cerchi su YouTube scommesse da bar, di queste te ne escono 2 miliardi. Insomma, allora le facevamo noi. Poi ce n'è una, Capitan Vicky, non so se ci hai mai giocato. Che? Ma che cosa? E chiedilo a Franco, l'amico comune, avete la stessa ricorda, Giovanni me lo davo io, se no lo troviamo in coso, come si chiama, come è tipico, a mio cugino. E cosa aveva fatto? Beh, questo Capitan Vicky si fa quando sei in compagnia tutti quanti, noi avevamo fatto quella birra là, perché col vino può essere anche più pericoloso, e ci mettono tutti quanti in fila e ci sono dei gesti da fare, devi dire Capitan Vicky beve per la prima volta, devi fare dei movimenti per poggiare il bicchiere una volta, eccetera eccetera, poi lo fai con due, prima con la dita, poi dici Capitan Mick beve per la seconda volta, devi dare 2 sorsi e poi dare 2 colpi sul tavolo, e poi cosa devi fare, sino arrivare a 3, e poi c'è 4, beve, no, cioè sì, no, a 3 devi dire, per la terza è l'ultima volta, ma c'è tutta una procedura, quando inizi a bere, che sei mezzo coso, ti impappini subito, a mio cugino Franco, se non lo fermo io lo facciamo che il giorno. Già lo conosco il gioco, ci ho capito, è già vero. Tanto hai visto il tiro da 3 che ha fatto, da paura? No, guarda, c'era quel Dino, l'ha fatto, quello che ha fatto Dino sta dicendo. Ma? Ma a me, stanno parlando il pubblico, là ci sono belle bischierle. Un attimino, prendo una cosa, ma... Via. Il boccione, sta... Sì. sì, sì. Hola. Non ho mangiato un carciofo, mi sono mangiato. paella a pranzo. Mi ha passato un bel po', avevamo i boci, me la mangio tutto. Cavagava. Beh, no, io di cenare pesante non ne ho voglia, anche perché questo periodo non sto digerendo bene, se mangio troppo mi sta sullo stomaco, perché non c'è il tempo di digerirla, quando mangi di notte la becchi sui occhi e non digerisci bene. E vabbè, poi è riso, cosa, vabbè, c'è come cresci, già era non è pesante. No, mi tratto l'aranciata, guarda giù. L'ultimo, attaccando, poi al limite ci mettiamo adesso. Ma se mi latte che ti fai mangiare? La notte è presto la 9. Dove va? Cosa? Ma... ecco, ci dice, perché questo dice andando a cercare... poi c'è un banco dove tu pesci nudo, coraci, sono le armati, tu il pesce con la torcina nella sua capo, prima la dai tu, una vita, un'etta dal pezzo, per andare a adottarsi, c'è una gara, c'è una vuota, è una tattura, è una cosa che faccio, ma è via pieno. Ma già tanto il lato, c'è il cuore di vedere l'acqua, come tu, apri, fare, e vedere l'altro. Insomma, ci va la clacchi, c'è lui. Sì, così. Ma poi, ciao, sono proprio un po' per la tensione tutti i denunci da povero uomini di mostrare quel merito che si sono circolata col vito meno intento e poi mi Marco, c'è sì la maggioria delle persone è dopo che lo altro sulla nostra c'è più la stessa forma ci sente più cose no, so, so se non c'è spazio perché altrimenti il DAC ne ho ragione. messo a posto. Sono venuto stasera, lo stavo usando stasera, solo che ho l'M500, domani me lo controllo. Deve essere la pulsantiera che è sporca, ogni tanto non mi fa uscire il radio, capito? E allora ho attaccato questo, ho mutato questo. Watt, 180 watt, ma col però le coliche, capito, in banda laterale. gli altri deve tenere sempre 30 watt, 40 watt, non di più, perché come supera i watt si giova. È positivo, torna indietro, hai capito? Torna indietro e ti fa rientro, magari ti può anche bruciare la radio, così è. Bruciare no, quella radio lì va in protezione, non è che le faccia niente, ti avvisi quando inizia a gracchiare, inizia a fare, ed è quello il problema. Invece quello a trasformatore non gli fa niente, la scheda ne risente, sono delle schede piccoline che tengono quei watt, quegli ampere, poi non è che vanno più di tanto, ma anche quelli grossi a 40 ampere, 50 ampere, cosa pensi che possano mantenere? Se l'attacco rugoso, i 7004, 200 watt in banda laterale, li copia. Ma schifo che non fate questa radio, a non essere autoalimentata, esatto, 220, no? Io sono 780 della Kenwood, che è 220, eccezionale, non c'è niente da fare, non ho problemi di alimentatori, non c'è problemi di niente, va molto bene, 940 e a 220, quindi non c'è sceso ieri perché il tempo era brutto. Scenderà questa settimana, se no mi toccherà andare io a prenderlo, cazzo. E sicuramente non la baci gialla. Partiamo presto, torniamo presto. E allora, magari andiamo a regattare pure amico tuo, a vedere se mi dà quella roba mia. È positivo, scopa, perché lì in zona? Non è grigia, c'è già che ti vuole andare grigia, staccagli. Domani io ho questa riunione all'Hotel Carlo Felice alle 3:30, dobbiamo vedere un po' di cose, c'è tutta la direzione generale, anche noi non è che stiamo andando al 100%, ma mi libererò verso le 4:30, alle 5. Poi tra l'altro devo andare da Rozzetto per farmi attaccare il computer alla macchina. Sono alla radio, cos'è? Lui, cosa mi difendi Stefano? A me vuole? No, non lo so, sono telefono con lui. Ah, si è telefono con lui? No, oh, lo aspetto, lui il telefono, lui, ma si chiama anch'io, così non ti crea nessun problema. Tu, da quando ho visto qualcosa di ieri, cazzo, un po' mi ha... Ma non lo uso il migliore, guarda. Vabbè, chiamalo, mi ha scritto tra più di questo team, e poi mi devo dare l'altro. Aggiungilo a lui, diglielo di aggiungerti, apri la pagina tua del Vipata, cliccaci direttamente su Claudio e dopo aggiungimi su Pata, così mi mette d'accordo voi, no? Tramite Pata. Sì, questa c'è ancora il team lui, non so che cazzo vuole fare. Aspetta, non lo so, aspetta un attimo. Poi classico, non sai che io discuto. Ci pongo da me in forro, cazzo la canoa. Ma è tranci di pesce spada. Oh cazzo, non voglio più tranci di pesce spada. I tranci si chiama. Ehi, tranci, cazzo me la puzzi, siamo mai compreso. Sono buoni un bel, anche quelli di Rospi sono buoni, Riccardo, ci sono i pomodori e la mozzarella. Sono tagliato, semplice, c'è un po' di mozzarella, un po' di pomodoro, li metti le cipolle, il tonno, li fai il condimento, oppure li metti il rustere, le cipolle, li metti le patatine, le cose le fai in forno. Escono un bel croccante, un bel buono. Mia moglie quando la fa, la fa tutto da zero, prende la farina, tutto quanto e la fa lì. Conviene più comprare i tranci, perché fai prima. Sì, quei tranci lì io li prendo alla Conad, lì, cazzo, io ogni volta che vado lì, meglio me ne vado subito, soprattutto dove c'era la multinetto via Gramsci. Perché c'è un bancone, cazzo, tutto pieno di dolci, che è una cosa pazzesca, visto questi cannoli siciliani, mamma mia, cazzo, per carità. Io li prendo lì e poi quando vengo a casa li condisco, li rimetto nel forno, una cannonata. Lo so, qui c'è la pasticceria tutta, no? Cazzo, Gianni mio, cosa vede, Gisru, cosa vede? Forse prendono la pasta, li bloccano le levitazione, tipo come le baguette, poi li mettono in forno, li mettono la crema, capito? Però ho visto che le fanno loro tutte. Tutto loro fanno. Tutto loro. Ma si vedia, cosa vede? Che domani che mangiamo andiamo e se vediamo i cannoli. Ora uno se li pulimo in culo. Cannoli di ricotta fresca. E invece noi abbiamo la cucina. Capo di Bugnè, ma come c'è? Ehi, hai detto che domenica mattina andiamo in chiudi per la Multinito, la Conad. Mi dicevo i cannoli siciliani, freschi freschi. Io veramente, claro, la spesa la faccio la Conad, mi trovo molto bene. Cazzo, ma c'è un coso lì, in parte della pizza, rubare, tutti i dolci, mamma mia, che cosa reda. Che tranci di pizza compri tu, ma quelli surgelati? No, quelli che fanno loro, tipo pizzette, che poi li vendono al banco. E poi cosa fai? Ma devi aggiungere mozzarella, cose così? No, c'è già la mozzarella, è un bel puro che ne è, un bel puro. E aggiungi capre, acciughe, tonno, cipolla, di tutto li puoi mettere, ma la pasta è talmente buona che sembrano pizzette che... Non l'ho mai preso, devo essere sincero. Buona, roba buona. Positivo, va. Positivo. Già, e quindi quelle che ha fatto tua moglie sono più buone. Sì. Poi diciamo che le scelte di quelle che compri. E voi di quelle che ha fatto oggi. No, quelle che ha fatto oggi sono i tranci con i surgelati. Già sono aggiunto la terra, però la fa anche da zero. La fa tutto. Di frittare tutto quanto e poi la fai, capito? Solo che devi fare troppo casino, scordi tutto il tavolo di farina, di coso, va un casino niente. E andando a mangiare, la vivo un tempo, invece lui sono già pronto, li metti il condimento, fa un po' di cipolle da parte, no? Come le fanno con i paninari. Le fa così e poi le mette sopra, con un po' di mozzarella, li mette i condimenti, a me piace tutto le cipolle, per dire me l'ha fatto le cipolle, all'altro piace il rooster, all'altro piace le patatine, e ha contentato tutti, ha fatto di tanti gusti. E' positivo, no, credo che l'avevo fatto da zero, capito, infatti ti ho detto se la fa più buona della pizzeria, diciamo, no? No, vabbè, oggi no, però quando le fa sono buone, quando escono bene, le prime volte sono uscite la gaga, le ho imparate, che lì. Mia moglie l'altro giorno ha provato a farla, invece ha potuto fare la pizza recendo in Lombardi, quindi si ricurria l'umulo, cazzo per dire l'umulo. Sì, vabbè, l'ha fatta questa pizzeria che c'è sotto casa, l'hanno aperto, si chiama Pulcinella. Pizzeria Pulcinella, la pizzeria della Napoletana, che vedi da, sono venuti degli amici e te lo facciamo, ci andiamo una pizza insieme. Sì, perché no? Siamo scesi alla pizzeria, abbiamo fatto qua giù, gli ho fatto fare un coso, un metro di pizza, perché fanno anche la pizza al metro, no? Con tanti gusti, eccetera, eccetera. Poi l'ho portato a casa, in mezzo alla fila a fila, hai dato la grossa, tutta quanta bruciata, grazie di questa pizza. Questo due di cavolo l'ho fatto, e dice, vabbè, la mangiamo come la fuzzina. È positivo, positivo. No, invece ho si è messo a fare la pizza, ma davvero mi sembrava che l'uscita perfetta e come la mette in forma, si è sbagliato la cottura e invece ha fatto la forma del panino, la forma del panino, che sai, tagliuzzato e come, cazzo, di profumo era buono, tanto magari non era bucato da un corpo. Se ne cuoia lungo, va via, due buchi va via lungo. Vabbè, ma l'hai fatta a casa tu? Se mi viene, sbagliando si impara, io cagnato. L'ha messa la fretta di farlo, no? Ha limitato poco, e a casa io ho il forno ventilato, no? Hai capito? Però, l'indomani, gatto, se prendo con la matita la si fa sciato. Tanto il forno bisogna accenderlo prima e scaldarlo, per uscire bene. Ma comunque anche a mia moglie le prime volte usciva un po' duro, oppure troppo molle, poi piano piano ho imparato a farlo. Qua ci vuole troppo casino, bisogna farla divitare, eccetera, eccetera. La cosa migliore invece la via di mezzo è quella della panetteria, come hai detto, che vai al fornetto di lassù, ci lì, ti prendi un chilo di pasta già fatta, te la ordini il giorno prima, te la fanno, tu vuoi la vestiti, ti fai spadete, ti fai, te la lavori, fai la pizza. Oh Luca! Comunque un segreto ve lo posso dire, preferisco sempre quella della pizzeria. Anche io già, anche io preferisco quella della pizzeria, le pizze, perché io le pizze grandi e cose non le mangio, perché non mi piace il sapore. Però quelle della cosa della pizzeria, io le prendo spesso lì via Rosello, le pizze tartaglie sono molto buone. Anche io le andavo a fare la spesa con mamma al mercato, non ricordo, ce la prendevamo sempre. Sì, prima c'era il padre di quello lì, mi pare. Il padre le faceva buona, poi non lo so, non ho più preso. Io le prendevo via Cadella, ma le prendo quattro, le faccio mettere via, le metto via. E anche lui, no, adesso c'è il figlio che diciamo che le fa più o meno come il padre, hai capito? Tanto il padre c'è sempre, attenzione, tu non lo vedi fuori, però lui dentro c'è sempre. Ah, ecco, fa la fede pure mi pare, no? Sì, fa la fede, fa panini, fa pizzeria express, hai capito? Fa adesso anche le bevande ciabibite e tutto roba così, in più vendono i tranci come stavate parlando voi da mettere nel forno, pronti da mettere nel forno, hai capito? E così è buono, tanto le pizzerie fanno così, lo stesso quelli che fanno le pizze al taglio se le preparano la prima, le fanno scaldare un po', e poi li mettono sopra un po' di mozzarella e via, si bolle in forno. E io, proprio così, positivo. Dramatica. Sì, scusate, stavo rispondendo a Stefano, ho chiesto io dopo, che sta facendo aggiornamenti. Cazzo, la nuova moglie dico che malluna. Vabbè, no, guardate che anch'io sono d'accordo con voi, perché la pizza migliore è giustamente, mia figlia è già di vita, già la cucata te l'ha portata un destino. Già rientrataci, la pizza migliore è sempre in pizzeria, però queste che io prendo la Conad e Massimiliano, tanto sono belle, sono i tranci grandi che loro fanno le pizzette, tu ne prendi una parte, metà eccetera, la porti a casa, la condisci, guarda è la fine del mondo, ma è buona la pasta, è buono tutto veramente, è buono tutto. È così. condimento, faccia via fatti. Però basta che deve essere buono. Il segreto è fatti. I migliori pizzaioli sono i panettini. Già lo so. Aspettate, vado a bere. Anche Nino, mi vedi, Nino, per dire, la panettiere, faceva la pizzeria, faceva le pizze, e poi adesso andava a panettiere. Ci siete? Mi sono chi? Era. Grazie, mia figlia, guarda, è una allucinante. Non è abominato. Ha fatto un casino, ha voluto un bidone, mi ha svuotato tutti i giochi per terra, dopo delle svuotate gliel'ha lasciato i libri, no, adesso vuole Nintendo, la va giocando a Nintendo. Io so cosa le fa Liliana quando fa queste cose qua a Marco. Gli ha sequestra Nintendo, ma perché tu mi sequestri quello per diventare lo vuoi. Non è una fortunata, se hai sequestri quello ti butto l'esercito alla casa, dai. E anche Marco si incazza, si presta, si fa, ma se la prende la stanza a posto non è la fonte. Adesso gli ho fatto questo R4 dei cinesi, ci saranno un centinaio di giochi, 150 forse, quindi non gliene va bene neanche uno, ho capito, perché poi gli ho messo tutti i blocchi per il 3D, ho capito già, non glielo faccio usare in 3D, che se no le fa male agli occhi. Allora Gioppo, mi sono canale, Gioppo, Avelo, buonasera, picciotti Beggi. Vengo a me. Gianluca, Gianluca della Fuoco. Gianni. Via, buonasera Gianluca. Ciao ragazzi, buonasera, piacere Fifi. Giallo, vabbè, bello pimpante ti sento, voglio furato vai. Ciao ragazzi, mi sono ritrovato in questo momento qui. Mi stavo preparando, mi sono messo un pochettino qui su di steso. Buonasera, ben sentite a tutti. Via, Zene, biscottino. No, c'ho mal di gola. Ciao Massimilia. Sono risolvendo. È positivo, là. No, io ho fatto un'altra battuta, ti ho sentito bello pimpante, ho detto, ma non è biscottino? No, mal di gola sono Massimilia. Preso colpo d'aria. A gola? Via. Un po' di toni bassi, cioè, Massimilia, capito? Dai, positivo, là. Beh, c'è Gianni, c'è Luca, il QRX credo, c'è Claudio qua, avanti Claudio. Sicuramente no, vabbè, stanno riformattando il computer, quindi adesso non so se si sono ascoltati, ma credo di no. Avanti Gianni. Yeah. Allora, ma Gianni, non mi sono abito di lasciarmi. Non ho capito Gianni, non ho capito bene, dimmi. Certo, dove ti sei lasciato, ti sei aperto della macchina. Ma capito il primo. È roba ghiacciata, capito già? Cioè, raga, andare, è 2002, Ma che freddo, la roba fredda. La roba fredda da lì, che provi già? Ho capito. Cioè, ma che tu ti ricordi? Quanto costavano le 2001 le mini, le turbo, la mini turbo che te chiama? Quanto costava? 45 cazzo, ma poco dopo, 40 euro mi sembra già, 40 e non quanto 45 adesso non mi ricordo bene. Così ti ma ne sai se ne ha? No, non lo so. E 60 la grande. No, la grande ce l'ho, la grande non mi interessa, non la metto neanche. Ho capito, non mi interessa metterla la grande, già se metto un attimino piccolo. La fissa la vuoi mettere, Massimiliano? Capito, protettore, sassasse e collo. Con quella piccola ci molto bene. Ma Pasqua non ne avevi più una che ci va bene tu, Massimiliano, se non erro, L'ho latta. Cazzo. A chi le dà? Da quanto tocca comprare la latte? Vabbè, ma non faccio uscire niente, va. Ormai te la sento il suo spagnolo, un po' italiano. Sinceramente non so fare nessuno. Ma, vabbè, io l'ho sentito là sotto, là. Quindi, saluto, ti sei strascinato adesso un po'? Ehi, ami, ma non ti gusto. C'è come nella Berlusconi, che c'è il mio propaganda elettorale. positivo. Poi io una mattina mi faccio un salto alla Bitcoin, ho già gli ho tolto i completi di U750, li ho tutti belli portati, le legati a zero, proprio riportati a ferro lungo. Gli ho dato il fondo, ha coperto bene, adesso una mattina vado alla Bitcoin e prendo due bombolette di quel nero opaco, me lo rivernicio così ripiazzo tutto. Ma di cosa sei proprio detto? Da 750. Ah, il lineare? Sì. No, non è fatto, ma io una carriera mi è fatto, verniciato tutto, ma invece ancora nuda. No, ieri sera ti ho detto, ieri sera dovevo dare il fondo, no? Io ho dato il fondo e siccome l'ho dato ieri sera l'ho lasciato oggi, tutto il giorno ormai lo vernicio. Hai capito? Non l'ho verniciato ancora, no, non ce l'avevo neanche le bombolette, anzi, non ho neanche le bombolette. Hai capito? Ce l'avevo solo il fondo a quella spray così, e gli ho dato quello. Quindi lo sto facendo asciugare bene, domani mattina, come apre la piccola, vado, prendo le bombolette e lo vernicio. La spia è adatta per le brigare? Trovas? Dico, la spia gliel'è adatta, come ho detto io, per le brigare? Io gli ho levato il fondo a bomboletta, ho già coperto bene, perché i buchi non ce n'erano, hai capito, Gianluca? Ha coperto proprio bene, bene. Ok, allora, quella spia che ho detto io serve per levigare, per dare praticamente un'andatura quando levighi, ti dà praticamente quello che tu devi levigare, e dopo non tocchi più nulla, lo pulisci, lo lavi bene, lo fai asciugare e vernici. Ho uscito bene, ti sto dicendo già lui ha coperto tutto alla perfezione. Mi ha giocato con quella moletta che c'ha il disco con tutte quelle setole, hai capito? Gli ho tolto proprio tutto il nero, portato proprio a ferro, lucido, lucido. Dopo mi sono convuto e a mano e mi ho ripassato, me l'ho tutto ripassato, l'ho portato liscio, liscio, liscio, liscio. Hai capito? Gli ho dato il fondo. Ed è uscito perfetto, mi ha coperto qualche buchettino che è rimasto, ma poca roba c'era, ma proprio appena appena. E niente, ho levato il forno, l'ha coperto, adesso la mattina bisogna me lo verniccio. Anzi, prima lo carteggio con l'800, con la carta 800, e poi lo verniccio, non si sì, usarlo, perfetto, va, avanti già. La soddisfazione quando il verniciato li passi la mano sotto e a capo lo senti se c'è qualche cosa che non va bene. E poi lo vernici, perché molte volte sembra così, dopo quando va verniciato esce tutti i segni dei buchetti e così. Anni, allora l'ho portato a zero completamente e poi gli ho dato un fondo a spray, hai capito? Questo fondo serve per coprire i buchi, ma già non ce n'erano dei buchi, hai capito? Già. Se ti sei l'ho portato a ferro liscio liscio e poi oltre che l'ho portato a zero poi ho preso la carta e l'ho passata a mano proprio, hai capito? L'ho inviato di nuovo tutto a mano con la carta da 600, poi gli ho dato il fondo, adesso prima di verniciarlo domani lo devo ricarteggiare con la carta quella fina fina che te lo porta, che te lo fa liscio liscio mio, hai capito? Ah, va bene. E Gianluca è male, va, non è tu quei rotelli oggi. Ma non faccio i rotelli. Hai bene tutta la leva. Bravo. Positivo, positivo. Claudio? Puro mazzo, un puro mazzo. Gianluca mi pare che ha fatto la monella oggi. Non posso proprio. Sono sede dove che tu cazzo è un casino. Chiedi ha giocato proprio la padarecchia, la mini, c'è un casino. Ce l'ho, ti viene a regare in macchina. No, ho salutato a tutti, ho detto ciao raga, e mi ero vanelli. E come ti vai a fare manichi vito, vediamo metà mattanino. Come è, lui? Ma figurati. Ha salutato a tutti lì, un'ora fa. È andato da, sì, ogni tanto più allegria ci vuole. Adesso ti bevo una bella bottiglia di Coca-Cola. E allora? Ma no, ho trovato un magnato, quando siamo scelti per la padana. In sonza. Hai fatto bene, cosa di no? Si vive una volta solo. Quando ce n'è, solo chi ne ha fatto un gatto è alla cuba, dove? Io sono venuto a farti compagnia, gli avviati a me. È capitato Massimiliano, non è che l'ha giocato più, ma quello lo sapeva, se ho passato nei chiusi, ha giocato l'aria, mi muovo una cosa, e siamo rimasti in fessa. Hai fatto bene. No, infatti, a Gianni che andava a dire, no, Gianluca è male, che saluto e va, lui detto con le rotelle, che cammina la giura, e tu, no, appena così, ma va bene, dai, avanti già. Una volta ogni tanto si può fare, mi piace per portare via, non male lui, perché c'è gente che ci l'abbia a fare noi, quando vedi il gruppo, lui va nel bar a noi, io avevo un amico così, era artista, ragazzi, quando Barbera era artista, poi di carta era tranquillo, cosa, però quando Barbera non era artista, invece io mi mettevo a fare casino. Anche se voglio dire segmentali già, ho preso l'aria, invece dopo di arrivare a cantare, siamo fatto un po' di poco di canzoni, siamo creato una pasticcisi, ha già mangiato, ma mi sono bucato, ma se cazzo me la fotti. Il problema sono il lascere, è passato, zero. Non è già lui per il gesso. Certo Gianlu, ti tengo come te, non so, Gianni forse se lo ricorda il gambaraggio, ti fa vedere un po' quello che hai detto. E lì ero un capo sportivo a Porto d'Ore. E usava Marco Cicchi, chiamava Cicchi di cognome, non mi ricordo il nome. Marco una volta liata, metto la bocca liata, cantava di imbriagato. C'è la scusa la retta allora. No, ti smette di rompere i coglioni, allora l'aveva liato una volta a Lungoso della rete. E lui lo chiamavamo per darci il pallone, no? Quando era la Durris, eccetera, quando c'era Giampaolo e Maciccia, ma ti parlo ragazzino. Cazzo diciamo, ma così un pallone, ma cazzo non lo fanno, cazzo in tocca, ma che ragazzo lì, mi ha cagato. Siamo riusciti un po', ma non mette di che. No, io ci mi come butto. Io no, la verità è. Anche perché stavamo mangiando, bevendo e stuzzicando, capito? Allora, figura che giù mangiato pure un pezzo di minestra, ma ci possiamo mettere di gommare pieni. Ma cos'è, un ristorante, Gianluca? Magari un ristorante, un coso umano, un circo Salaggiucchi, cosa cazzo è? Sono il gruppo da suendo con le chitarre, a carità, a parità. Bravi veramente, sì. Cazzo c'era un gruppetto formidabile. Ma non c'è così Roberto, eh? No. Eravamo praticamente, si chiamava l'ex circolo turitano, adesso si chiama Polaus, che c'è una traversa di altro di Basera. Un sotterraneo dove ci sono sala biliardo, qui sta con la ping pong, il biliardino e tutte le altre cose, no? E poi fa anche musica dal vivo, con tutti gli aperitivi, no? Fa di roba di magnai e via dicendo. Ma cazzo male, io ti capirà. Vero? Ma c'è femmine che vanno a zittirri. Ma su questo di mondo, il cazzo della vita è bacia. Come? Ah, ma cantenti! Io sono per aspettare di più, quando era Michelega, mi buona cosa, poi per la Lurupu. Luca, Lucazzo, aggiunta, io. Fagli se fagli tasso. Positivo, va. Quindi ti ha fatto anche due canzoni lì, va. Tutto balle di via, mi. Positivi. Doppio Luce, tu conosci tu la gambaraggio, sì. Allora, Giuseppe. Niente, sono mia. Ma non... Però ci che l'ho conosciuta da... Non me lo ricordo. Parliamo del campo come era, no? Solo che a lui le veniva male perché quando a noi non ci faceva entrare via Virginia Scione, la nonna di Duilio, eccetera, no? Che sai che abita sempre lì, è morta via Virginia. Era la sorella di mia nonna praticamente. Faceva entrare, noi facevamo il giro dal rifugio, alla fine via Cavugia, lo sai dove, in fondo, e io la vicina mi diceva, ma che chiave, io entravo dal rifugio, quindi salivo da dietro, chiudo di via e tu attendi, tanto di bicicchia, allora lì ti hanno rompito le balle, Gaetano 30, tutta la greppa dell'avvocato, Giorighito, tutti quelli che abitavano lì via Libio, andavamo tutti a vedere le partite, le bollottole, si entrate tutti a gratis. Ci hanno rompito le balle, la cerchia della rinviato la rete. Dove stanno? Era micidiale, ragazzi. Sì, su Cantera, Maro, ragazzi. Se no, Gianuario Spano, il fratello Battianino, Vera Coso, che c'è il peschereccio, padre, non ci aveva, che adesso non so se è morto, che l'avevano operato alla gola, un figliolo di Giorighito, Giovanni mi sa si chiama quello piccolino, che sapevano tutti al satellite, cazzo, ma che farei davvero, e hanno pito di coglione, aveva cercato l'arrivato, li volte a Rua Rugoscio, alla rete, e non ci abbiamo visto, cazzo, non ci amavano, cazzo, Ocone, c'era Ocone, lo stesso, Carlo Polo, eravamo tutti lì. Carlo Polo, sì, Carlo Polo lo vedo sempre. Carlo Polo che è una brava persona mia, lo sai che è un bravissimo barman, fa tutte quelle discorsi con i cocktail e con tutte quelle cose lì, è un bravo veramente. Ma dici su chi sei di tu, chi sono di Condi, sono di Ghita, eccetera, ma non è che sono Attanasio di cognome, no? No, Sanna sono di cognome, Sanna, Robo Baviero Meschireggio, Sanna. Magari la cicca. Ehi, la cicca, sei la cicca, allora. Cazzo, tu sei di tenere, ehi, cazzo, ma so che sei di tenere tu, cavolo. Uia, l'uomo di Tonino, poverino, Tonino che è caduto a Capaterra, è molto bovarino, mi sono tenuto la cicca. Ci riconosco tutti quanti quelli lì, Claudio, veramente, li conosco tutti quanti, bravi ragazzi, poverino, sfortunato è questo ragazzo qua, proprio quanto era in gamba Tonino, cazzo, mi rammento sempre. E io voglio che Maria la cicca, io lo so, abitavano tutti lì, io sono nato in via Libio, quindi Dubronx allora, prima di nascere il villaggio satellite, era tutto in Chivi, via Cavour, via Libio, via Cicco, eravamo tutti lì, capito, via Petronia, via Re, tutti lì eravamo, tutti. E Tonino abitava proprio dietro mamma, e io lo so, sì, qualche anno fa con lo scooter, Vera Vredo, e dove ci è morto e poi aveva cifre da mano, mollato lo stretto e cagiudo e si è avuto un gabbo a Rocca o Marraggio e lì vicino a andando a lavorare, poverino, è un bravo ragazzo Tonino, ci conosciamo da bambino, insomma i segreti era micidiale, vero come era una cosa allucinante, e Carlo è chi la, la madre di Carlo Polo, capito? Mio Mario era, era palombaro ciclista al porto. Claudio! Oh! Dai che scartiende a casa tua? Che re? Dai che scartiende, la gente già non vuol dire rivende, tu vuol dire la cartende. Io ti sto vendendo, io non so cosa potremmo vendere, mi sia. E allora mi ha mandato si fate una fiatesata, mi ha detto che devi essere lì al culo, io non riesco mai a cagare più. Ti ha fatto il dini, no? Ti ha fatto il dini. Oh, Gianni! Ehi, allora, molti già non li ho conosciuti io, però qualcuno tipo Brazzito, tutti quelli lì, Grillo, tutti quelli li conosco. Ci sei una vita tua produttore, se cazzo via Libio, via Cavour, tutte quelle case basse che poi ne hanno buttate, hanno fatto la piazzetta, tutti lì erano lì, sino arrivare a Sia Maria de Murtas, dove c'ha i magazzini 5 Luglio. 5 Luglio. E 5 Luglio lo chiamo io, anche sempre arruiatato. Tu immaginate che io sono andato a Niscemi, perché lui è di Niscemi, che è un paesino che si assomiglia molto a Porto Torres, in provincia di Caltanissetta. Perché? Perché mia sorella abitava a Caltanissetta, che il marito è siciliano. Adesso vabbè, tanti anni, una ventina d'anni che si è trasferita ad Alghero, sono venuti qua. La moglie di lui è molto amica di mia sorella e sono andato a casa sua una volta d'estate, io sono andato a trovare mia sorella lì. Tu devi vedere cosa va, una villa, una vicina in Sicilia, ma grande, grande, grande, grande. Scusa, porta bello, ok? Ah? A porta bello, ok? Portobello. Ma che cazzo Portobello è il messaggio dei pulci? Dove ce l'hai in Sicilia? Porto in Pledocle. Porto Cle, ma io guardavo una cosa del genere. Ma al sud della Sicilia, Agrigento, Porto in Pledocle, Sciacca, San Leone, quella zona lì. Ha già detto a Niscemi, Niscemi è un paese in provincia di Caltanissetta che praticamente si assomiglia molto a Porto Torres, perché l'ingresso di Niscemi, di questa città, insomma è una città, non è un paese, è una città, mi pare che abbia un 20.000 abitanti, una cosa del genere, 18.000, 20.000 abitanti, l'ingresso è uguale a Porto Torres, quando tu entri da via Sassari, no, c'è proprio la biforcazione, una che va corso Vittorio Emanuele e l'altra che sale in via Tre Sacchi, è proprio uguale, all'ingresso proprio della biforcazione c'è un rifornitore come quello che abbiamo noi della Esso, uguale a quello, e la piazza è proprio simile, tutta piena di negozi, poi c'è una piazzetta sulla sinistra tipo la nostra, dove inizia il corso Vittorio Emanuele, no, da via Sassari al corso Vittorio Emanuele, proprio uguale, molto d'ora. Che visto? E questo stronzo, cazzo, non l'ho mai voluto vedere, ha cominciato l'angolino di rivolti che viene via Gojo, non si chiama, Mastro Gerolamo, cazzo, e poi si è comprato mezza via, cazzo, mezza via si è comprato, ma non sapete che sta facendo anche il capannone a Sassari, sì? Ma domanda a me a vedere quanto si poteva fare. Se immaginate, cazzo, la famiglia pesa in culo qui. Ma lo visco là, come se ti fatti male la gente, la stare fatti lasciare. Ma che ferramenta? Ehi, ferramenta, Io ho visto lì, su Leopoldi lì, che va via, non si piazza, che sono vestito, ma marino, ma che buoni lì, pocare lì, tu cazzo, a questa morirosa, cazzo, di monare, io volevo di una stare in busta, la poi controllava con le due orologi della Iescia. Ma non c'erano i benzini, io ho dimenticato i benzini, no, era il busto di legge di benzini. No, a parte gli scusate, veramente, c'era uno che abitava vicino a me, che aveva, era veramente bravo a aggiustare gli orologi, quelli a corda e quelli automatici, ma già era bravo, poverino. Quello ti ho detto che il nipote di mia nonna, Ascione, Ascione, capito? Ascione, quello, e c'è ancora, adesso c'è la sorella, c'è Maria Luisa, Maria Luisa, costesso, quella mia cugina secondo grado. Sono i figli del allora non nascione era la mamma di Babbo, la mamma di Babbo si chiamava Non Nascione, quindi era la sorella praticamente degli orafi di quelli lì, tanto è vero che gli Ascione sono orafi e poi i Marti sono diventati tutti orafi tramite gli Ascione, dove è nato Andolfi lavorava con Ascione, e con mio zii, con Barracco, quello di Alghero, sono fatti male tutti in parichi, si compreso . E la nonna, signora Nascione, Luisa, la conosco pure io, la signora, e il marito tutti tanti, no? Io stesso con l'azienda, vai da, a parte il discorso di Ascione e quello che dicendo, c'era in piazza, all'altezza dopo la, praticamente adesso che c'è quel negozio di cinque rui, la ferramenta che fa l'angolo, c'era di due rifiuti, di due monni, di due che vogliono guiuppa, manna, gatto, bovarino, gatto, che accostavano le uzi, monni, ciulio. Ma c'è anche Peppino. C'era anche Peppino Ascione che aggiustava gli orologitore, mio cugino che è il marito di Pina, dove c'era l'orologeria all'altra parte dove adesso c'è la farmacia del Rubatto, quella era Pina e Salvatore. E poi quando è morto Salvatore Pina ha tenuto aperto per un po' di anni e poi praticamente ha chiuso e l'oreficeria è passata a Maria Luisa. Capito? Vabbè, sta gran culo donna. No, vabbè, la sala figli, veramente professionisti, Claudio, veramente, vabbè, da quando arrivavo l'orologio, che dopo lui ci aveva praticamente, e tuttora mi sembra che c'ha la, a parte la rivendita, ma l'assistenza festina, cazzo, la parete, so, subito visto che verrà via Libia, là, c'era praticamente un laboratorio che non fa vendita, fa proprio riparazioni, molto, molto bravo, ma veramente, guarda. Non è facile fare i semifieri, cazzo vedi, sono così abbastanza delicati e complicati. Mio zio, fratello di Babbo, è sempre d'Alghero, sono orafi. I figli della sorella di Babbo, Barracco, sono tutti orafi ad Alghero, capito? Via 20 settembre e al corso lì dei Bastioni ad Alghero, sono tutti orafi. Mentre l'altro, la Pietraia, praticamente ha preso la licenza quando è morto Babbo, gli ha passato la licenza delle bombole, infatti c'ha la rivendita bombole e poi c'ha un negozio grandissimo di attrezzatura sportiva, campeggio e tutto, capito? Vende le moto, vende biciclette, concessionario Piaggio. Beh, Babbo nel 60 era concessionario Piaggio, Bianchi, Traiun, per tutto il nord di Sardegna, e concessionario ufficiale della Michelin, quindi. E se mi raccomando che non è stato accogliente in mezzo, io sto tranquillo, o in mezzo alla mezza, ma meglio lì, non accoglienti, mezzo alla mezza. Purtroppo è venuto a mancare che noi eravamo tutti piccoli, io avevo 3 mesi, ma Babbo aveva 2 negozi e due officine di autoricambi, tanto è vero che Mameli e Busia erano dipendenti di Babbo, io quando vado da Torre, anche da poco ci sono andato, avevo comprato la batteria per la Smart e non ne avevo pagato, non mi vado a pagare mai nulla, erano dipendenti di Babbo, capito? E vabbè. Purtroppo è così, ma mamma già si difende a Polottores, già verrà anche appartamento. Quando muori mi vendo tutto e mi andando alle Bahamas. Ma capo, un paccolino la buonanima, un paccolino mamili. E allora, era dipendente di Babbo. Lui è Tori Bugia, Babbo aveva 2 negozi nel 60 e aveva iniziato, ho vita. 2 negozi di autoricambi e 2 officine, una produttore e una bancale, facevano trattori. Guarda, con Babbo lavorava molto signor Nino, ma Trurio d'Impressa, Gianni già si ricorda. Signor Nino Monanima, il padre di Marco, aiutami, mi suona la chitarra, il canta, Marco Perantoni, signor Nino Perantoni. Signor Nino faceva i trattori, tutte le macchine. faceva motori meccanici. E c'è un uomo di Marco Baratore, di Giorgio, di Claudio, cazzo, quella bravissima persona, molto molto molto bravo, il padre di Claudio, cazzo me la metto io, e non me lo reggo, ci andiamo via Cavour noi, compreso in Borgona. Io sono stato in moto dove ero duro smarketing e di cadere a favore di Bistotto ed era lì già, si sudava, le facevano un casino niente, una paracarriera, quindi si stacca e gli si derrubio. Bistotto da poi era l'officina di Cipracco, di sui secchi, Cipracco. Io mi rammento, io mi lo ritro, poi mi sono andato perché mi siamo seguiti a fare il suo gabà tuttora, nell'81, io credo no, che mi sono comunque dove andava. Caso si mi rammento, è una bravissima persona che si chiama Antoni, è un grandissimo meccanico. Giunino ti sto dicendo era molto bravo e Marco era molto bravo lo stesso, poi è entrato all'ispettorato e quindi insomma, ma sono tutti diplomati e tutta gente sta bene, perché Giancarlo è un assistente al nautico, è un assistente sempre d'officina. Poi chi c'è? Giancarlo, vabbè, Marco, Claudio, l'altro piccolo ma metto che ti piazzo di giama, poi uno è vice direttore in banca, l'altro mi pare che lavori a Genio Civile a Sassari, insomma tutta gente sistemata, ma io ti parlo degli anni che furono. Tu immagini già di Babbo, in quegli anni c'aveva la Giulietta quella, non ricordo che tipo era, mamma c'aveva la bianchina scappottabile. Si stava bene, si stava molto bene, peccato, vabbè, pazienza. Pazienza, mi ricordi, purtroppo, io le racconto per quello che mi ha detto mamma e miei fratelli e mie sorelle, ma non l'ho conosciuto, quindi non posso dire né chi era né chi non era, ma ripeto che se ci fosse stato lui ancora vivo, io sicuramente me l'avrei grattato i coglioni dalla mattina alla sera, sicuramente. Forse ho qualche spicciolo più in tasca. Avanti Massimiliano. Va bene, se te li vuoi grattare, te li puoi grattare anche senza spicciolo in tasca. Oh, cazzo, se ti ricordi uno spicciolo in tasca, magari alle vecchie. Se ti ricordi a Marco Lunghi, cazzo, me ne pare i coglioni in terra. Sì. Intanto siamo in fascia protetta adesso. Sono tutti addormentati, tranne Giulio che sta ascoltando. Giulio, mettiti le cuffie, avanti già. Giulio! Adesso è sdraiato, ascoltando a noi. Uscire, vero è Gianni, poi pia Gianni non lo compriamo mai volte, li buttava da Roavo e li buniali sono i nuovi, vero già? Adesso Gianni tra un passaggio e l'altro si è fenduto sul rago. Non è il tempo di prendere il mic. Sono orgoglioso, sono vicino, si trova in tanto per vedere le astre. Vabbè, non regge, mi ho capito Gianni, non regge. Ma chi secondo te Giampaolo è potente? Sono abitato. Cazzo non regge. Aiutami moglie, mi non ti dormi, che arrivo subito. Adesso che finiamo il computer, non ti dormi, che ti ha raccontato una poesia. Allora, mi sa il ginocchio, che ha un gran naso. Racconta le favole, racconta un gran naso. E non lo so che sa un gran naso o cosa. Sa un gran naso. Ti posso dare la mano e la mamma, attento Giorgio, attento. Così fammi dare la mano e mai domenico papà whisky, hai capito bella bella, hai capito, se ti trovo nella strada ti calpesto, e non ne vuoi sia da Ariana gatto che c'è a terra. Ogni America ci pigliava, diciamo la cammina, parla lì, cosa vuoi? Allora io sempre c'avevo il baracchino acceso a casa di mamma, allora il telefono veniva, e ti direi da Pasqua lì, cazzo, anche cosa ti dimmi Gavì, vieni a Gavina, a Pisani, a Domenico, e trovare da Cagì, ma non la mamma a casa che non ve lo buono, non c'è un Già Giampaolo, Giampaolo, sei lì, rispondi. Lisa Giampaolo, hai capito, eh? Quando non ci sei tu io vado, a Giampaolo c'è questa dice, io vengo a casa tua e mi trombo a tua moglie, hai capito? C'è pausa, vedo miracoli, bravo tu sei, però quella bandicciolo. Betti Piera, no, due risate di Vardia, due risate di Vardia, con chi da un anima capiva un carciofo che ce l'aveva attaccato, quando ridi a Maria Goccio, Maria Cipolla, Antonio Giacchevuta, Sant'Antonio mio, uia uia, Massimiliano mio, guarda era una cosa che le lacrime te ne scendevano, un cazzo le lacrime. Allora, una cionfra era, però era preso, però, a chi il cemento era sano, nessuno si prendeva per il serio, si rispettavano tutti e si andava avanti, sempre come quello che si era, capito? Si faceva più a prendere il culo uno all'altro, ma non c'era più di baracchino di Lucazzo, un po' di plastica di merda. Su questo te l'appoggio, Un cazzo appoggi tu, anche io sono con cui ripada un muro. Ma io faccio lo posso lui! Non penso troppo, no, se non ci metti in mano io! Gesce, gesce, vero? No, ma poi era una cosa proprio da divertimento, capito? Proprio da divertimento vero e proprio, non venire lì di... Sì, le lotte c'erano sempre, per carità, i genomiti erano sempre, io ero sempre all'ordine del giorno, per le competizioni, per le cose, però era un divertimento, capito? Era un divertimento. Era un divertimento perché era così, poi vabbè io quando ero a Polottolese eravamo tanti, anche a Polottolese, cazzo, eravamo tanti veramente. Poi avevo 14 anni, quindi venivano e mi pigliavano, mamma era sempre assustata, vabbè, veniva a prendermi Ernesto, Fortunato, veniva a prendermi Alfetta, stavo Emma e Vincenzo, uscivo con Antonio, amico Antonio Ressi, il padre di Gavino. Ma io più già con me, con Pasqualino, non ci mandano da barare, che vi sono tutti gli amici, quindi mamma mi faceva uscire, insomma. Ero sempre con Eddie, sempre con loro, sempre con loro. Con zio Paolino poi era amicidiale, il padre di Antonio, Antonio Culto, passava Antonio a prendermi Fortunato. E andavamo a mare, mi portavano a mare, a Piscà, capito, Sant'Antonio. E era una cosa molto, molto diversa da quella di adesso, molto, molto diversa. Avevano peraltro che lotte di combattimento Guraringa, capito? Guraringa siamo tutti buoni a lottare, alla voi una faccia seguiamo, però seguiamo tutti. Purtroppo così invece bisogna ognuno dice una cosa, faccia i patiti, una cosa dite, ma cazzo tu vai la bella io pulivo una bastona, infatti. A livello di una cosa, un esempio so che fai, di una cosa di un oggetto, non esiste, ma non esiste, dai. Ma io dico questo, intanto l'argomento è quello lì, no? Ma è possibile che per poter fare a pezzi una persona devi tranquilli a dire morca, ma non sei in grado di andare e parlare in faccia, se c'è un problema si risolve, ma bisogna andare a pezzi uno con l'altro, quello mi ha detto, quell'altro mi ha detto, tutti vauri, imbolichi, catti e matti, come dice mia sorella, ma cioè non funziona così, se non c'è un problema uno può anche sbagliare, sbagliare è umano, chiedi scusa, ma scusa, ho sbagliato, basta, non so, cazzo ma non puoi andare a far pezzi da niente, fa come ti ha detto tu, può un baracchino, no, non va bene, è una cosa che a me non interessa, forse perché io sono abituato a parlare in faccia, a affrontare le persone, a discutere con le persone, che siano più piccole o più grandi di me, no, non ha dei problemi di questo genere. Dunque, se stai lì, imbecille tu dici in faccia, non te lo mando a dire da Tizio Caio e Sempronio, perché poi una cosa detta male diventa un ceramento manno, ma manno che non veniva a dirlo, capito Gianluca? Così è il capo di Bonier. Aspetta un attimino, la faccia di su, capo di buglietta o codilongo, come ti faccio bene a bere a dirlo. La faccia di su, ma cazzo, ma le cose, gli usiti, le cose, le forme, dici se cosa, possono essere sostituite e messe davanti alle persone? Secondo me no. Allora Gianlu, dico una cosa, no? Le persone, vedi, poi inizi a conoscerle e ti rendi conto proprio che persone sono. Bella faccia e cattivo gioco, hai capito? La volta a te si fanno vedere belli, importanti, sì, qua, là, bomba, e dietro ti pugnalano, hai capito? Quindi bisogna iniziare a mettere da parte queste persone per farglielo capire un po'. Tutto chi sono voi, Massimiliano, io la verità non sono perfetto, parlo di me, ho i difetti, perché per carità, nessuno è perfetto, se così così, però voglio anche confrontarsi con le persone, capire dove si sbaglia, non sbagliare più, ecco, tutti tanti siamo chili, perché se uno si misura, non si misura, ma comunque sia, si confronta con le persone. E questo vivere, pensare tutti quanti bene insieme, tutti quanti chili, tanto ma su tanto maracchino portando in fila. Invece da sé una cosa di unione e una cosa di scontro. Ma come ci si piega? Gelosia, la gelosia. Ah, cosa cazzo di gelosia, cosa gelosia, cazzo di aiutare, cazzo di... Ma cazzo uno non riesce a farmi cazzo con uno con l'altro. Cazzo è tutto lì. O non riesce a parlare con un'altra persona, con un altro corrispondente, cosa vuoi di più? Dimmi cosa vuoi di più? Non so cosa mi possa essere di più. Se devo farmi di culo e mi tende e l'altro mi riponi a me, cosa vedi di più? Che uno va a una radio che costa 10.000 euro e l'altro mi c'è un baracchino di 50 euro. Ma cosa mi possa essere di più? Tu lo puoi fare, io non lo posso fare, però nell'insieme riusciamo a fare quelle cose, ognuno mette quello che può, tutto lì. Bravo Gianluca, è proprio così. È proprio così. Non è questione. Qua non è che si fa pensare niente a nessuno, è proprio un sistema sbagliato di poter impostare determinate cose, capito? Perché se noi ci siamo visti, abbiamo parlato, ci siamo detti quello che ci dobbiamo dire, nel senso sto facendo un'ipotesi, che so, tu come ti permetti alla voi, a Gatti, a un'altra persona e vai a dire il contrario, ma se 5 minuti fa abbiamo detto questo, perché adesso cambi o vai, ma cosa dirate, una medaglia, a far pettinare, hai un risultato diverso da quello, cioè non c'entra niente, hai compreso? Non c'entra nulla, è una cosa imbagliata secondo me. Io ripeto, come hai detto tu, ho sicuramente più difetti di te, perché io non ragiono molto facilmente, sono molto, non lo so, forse sono uguale, forse sono diverso, però se devo affrontare un discorso, se devo affrontare un problema e so di aver torto, io sono pronto anche a chiedere scuse, capito, se ho torto, se ho ragione però, ma poi va a pezzi, ma poi dimmi una cosa diversa, capito Gianlu? Non è mio motto parlare alle spalle, non è mio motto assolutamente, ho mille difetti per carità, però guarda giù di una cosa, te la dico in faccia, e a me non mi piace andare a raccontare favori a niente quando la cosa non è vera, se una cosa è vera allora posso anche essere d'accordo con te, però se una cosa non è vera bisogna che ognuno faccia la mia colpa e che pensi alle gatte Giulia e alla famiglia Giulia. Questo è il motto che sta succedendo da un po' di tempo a questa parte. Io infatti non ci stavo più entrando in 27 proprio perché mi ero accorto che molte cose non stavano andando come dovevano andare. Poi tra telefonate, gente che mi incontrava, e accedi, entra, cazzo non è più nessuno, qui e là, eccetera, eccetera. Siccome non sono nessuno, ma trascino un po' di gente, giusto così, tanto banditi incazzati, e si sta un po' animando la cosa, tutti i giorni c'è gente in radio. Arrivi sì, e le balle, torna, non vedo più, e se non mi dà in culo. No, non è fatto visto, io ripeto sempre quello. ognuno fa quel che può e mette quello che può appunto. Io dico una cosa, ma dici no, è un bel rapporto quello che magari tu dici, fatto come ti lasci spontaneo, io penso che sia una cosa genuina, è fatta col cuore, non fa cosa uno deve farlo, ma dici, Catalino, ma mi sei dico, sto pronto, trattalo, come ti fate Massimiliano, a me mi è piaciuto subito, subito, io sono molto per Massimiliano, mi è piaciuto subito, capito che si muove a disposizione, come te hai detto, che dato, e che cose così, perché non è il discorso di dire io faccio, io posso, io dico, no, cazzo, bisogna aiutarti un gulaccio, se fa nessuna cosa, perché io posso avere mille radio, però se dall'altra parte non vedi nessuno, io che sei radio, mi attacca a curva, che non serve una nuca, a chi lo fa vedere con nessuno, tutti i chili. Ah, perché io non mi sono mai messo a disposizione di tutti. Io quando faccio una cosa vado col cuore, non col culo, come fa qualcuno e poi te lo rinfaccio. O andare a raccontare a favore, capito? Io ho sempre dato di tutto e di più a tutti, perché non sono di quelli che si nega. Quando una persona ha bisogno di qualcosa, io se ce l'ho la do e non sto lì a girarmi le balle, capito? Poi magari serve a me e non ce l'ho, però non me ne frega niente, non vado a rifacciare niente a nessuno. Cioè, sono cose che devono terminare, perché siamo quattro gatti, abbiamo quest'hobby che è già abbastanza costoso per tutti. Chi ha qualcosa in più la mette a disposizione, chi non ce l'ha pazienza, ma non è che devi stare sempre a dire molla, a dire molla. No, non va bene, Gianluca, capito? Non va assolutamente bene, per me perlomeno, per me non funziona così. Voi ci parlate, andate una, unia barro. Dove Stefano? Mamma mia, ragazzi. Aspetta che lo rispondo. Riprendi Massimiliano. È positivo, vabbè, cosa ci vuoi fare? Allora, purtroppo non siamo tutti uguali, capito, quindi non ci voglio mai entrare in questo discorso perché mi sta venendo il vomito. La verità, però te la accorgi, una persona quando fa le cose col cuore, fa di te, un esempio, se vuoi io, no? Ma se la figli di tu, perché nasce spontanea la competizione, nasce spontanea la grandiosità di dire, io so, ma per carità, io d'accordo, ognuno fa quello che si può, ecco, io non penso che una persona fa quello che vuole, no, non fa quello che vuole, fa quello che può. Però di quello che può ogni persona per da una all'altra, nel senso che io sono disponibile e fermi di su chi fosse e comunque sia, ho questa passione, però questa passione mia non ha senso se dall'altra parte non è una persona che mi rispondi, ecco, io posso avere minima dignità di loro. E tutti che faccio tante cose della capa che io non faccio un corrispondente, ma dite che tu un scafoso non mi rispondi, e tutti in chili, compreso? E non so un modo così di dire le cose, io però la penso come sia invece una cosa altruista e deve essere fatta, perché se uno può fare qualche cosa ma un'altra, è un'altra persona, lui deve fare senza pensare a quei dubbi, ma io penso di vivere in culo un cazzo, non ce li fa, ma lui se li sa fa sola, va bene, conta di più di una cosa materiale. Appunto per quello, ma comunque Gianluca, lasciamo perdere là, c'è da farmi un libro. Tanto la radio, ti sto dicendo Gianluca, è diventato non mi sta più invogliando come prima, hai capito? Perché cazzo tutti in mezzo a negato, ma quello ha pigliato Guido, ma quello così, ma quello è colà, tutti davanti poi ti fanno il sorrisino, dietro il gatto ti la bolla in culo, hai capito? Cioè la radio deve essere, uno rientra al lavoro, rientra a casa, taccia nella radio, trova due amici, si fa due risate, una chiacchierata, boh, quella deve essere la radio, non mi trovo in culo con l'altro. Ma io si torna in mezzo con i tempi, allora mi domande dico, cazzo dico, ma figurati, io sono ancora con i matessi, mi stavo dicendo che ho cominciato così, ma fresca, insomma, metto un primo, la prima breccata aveva detto Gian Paolo Baisti, ma che porca a me. La prima breccata, la mia uscita a fuso, ma mio cazzo, e tuttora io sto con Fabinetto con Gian Paolo nella casa sua, ti bevo un caffè, fuoremmo, rimmo, che non chiedo cosa mi fa, pari cazzi rocche, se sta cazzo che dice, si dice, cose giuste, cose sbagliato, e l'ho preso, io non lascio la quello capoloscio. È positivo, positivo, già lo meno, eravamo lì stamattina, ci abbiamo fatto una passeggiata che dovevamo restituire quel microfono là, hai capito? Abbiamo fatto una passeggiata e niente, una chiacchierata, un caffè e ci siamo andati. E come si già fanno per me? Ma io lo dico, io a me, io con Giampaolo non ho mai avuto da ridire niente e lui non ha mai avuto da ridire niente su di me. Ma tu, no, io vada, ci conosciamo, e tu prima di me, anche da qualche generazione, davanti a me, così che non è poco di fa, non è che poi diciamo, e di lui chi non è, per questi punti e basta, tutti insieme. Però è bello esserci con il cuore, con quello che dico io, a prescindere dalla radio, che è una cosa che usiamo per comunicare, via dicendo, però da quel momento è esserci proprio quando vedi il bisogno, mi ha fatto un balacchino. Infatti, quando c'è bisogno le barche si muovono a parte e si va di persona, la presenza specialmente fisica, hai capito? Ma poi Gianlu ti accorgi subito dalla persona, a pelle ti accorgi subito da personale, hai capito? Tu te ne accorgi a pelle quando vedi una persona davanti. Speriamo che questa, diciamo così, che ognuno questa discussione comunque sia serva a riflettere, a farsi un pochettino, un attimino così, no? Una riflessione, perché nessuno è perfetto e nessuno si dice meglio uno dell'altro, ognuno ha da riflettere e dire, ecco, quello che conta che cosa è? Essere praticamente in pazzi con la persona che vai di fronte, con la persona che va a fianco, per poter continuare questa cosa qui, fin quando questa cosa qui funziona, che uno rispetta e si fa rispettare, per dire, capito? E tutto va bene, io penso che non vi sia un problema, che ci siano delle ombre su queste cose qua, perché praticamente uno, io dico, cazzo, riesco a fare questa cosa qua per una persona, però praticamente uno dall'altra parte dici, allora, già fatto così, io mi sono fatto così, ero forse, dopo un domani vorrà dire qualche cosa, prima o poi avrà contraccambiato, per dire, se uno cerca un riscontro, però io mi sono contento di essere così, di essere a disposizione. Positivo, io ho combattante Gianlu, io se si può aiutare, si aiuta, problemi non ce ne sono, io non ho mai avuto problemi, li ho sempre risolti, e se ci sono stati, hai capito? Quindi a volte, davvero, bisogna farsi un esame di coscienza, ma mi credi che non vieni giù la cultura, sono tutto l'ascolto, l'ho preso, però non vale la palla entrare, la di là Giulia. Mi ha voluto, ma scusami se ti, non ti voglio rimproverare, ma carità, però ti voglio dire, no, non è un discorso delle palle, ma entra e dice la sua, per carità, si può entrare, oppure va a dire che se ascolta e diciamo e si fa un suo parere, si fa una sua opinione, per carità, anche se sa che magari non ha il coso magari di entrare, non è che uno deve giudicare chi non entra, non va, no, assolutamente, no, non è chi. Insomma, se lui ha, per carità, per me, io come la vedo io, ho un'ascolta e dice, io penso, ascolto quello che stanno dicendo, mi faccio un ragionamento mio, da cui si va c'è l'occasione oppure l'opportunità o la cosa di poter entrare in la mia è un conto, però se non lo assolutamente, si fa per sé e io rispetto anche quelle persone lì, per carità, che fanno per loro e pensa di come ti devi pensare e senza aprire la bocca di musi e intervenire tutti i chili, no, non è chi sono materiali secondo me, secondo me un discorso è l'opinione è un'altra, ecco, a prescindere del, di avere una voce in capitolo per parlare, capito? Il pensiero secondo me prevale, è più è superiore alla voce. Ma io, guarda, io ti ho capito al volo quello che vuoi dire Gianluca, l'ho capito, io ti ho capito al volo, e so anche tutta la maravà, quindi ti lasciamo venire nel tono, poi lo punto e gli so chi sapremo, va? No, Massimiliano, non mi farà intendere, non voglio io la verità, io ho fatto la verità, le persone io, come per tutti, a parte gli sciabituri di ghiaccio, comunque sia, se uno cerca un quieto vivere e si rispetta nella radio, dopo io vi dico così su di fate chi tu che fu, ok? Di fate chi tu che fu, però... Se uno riesce, vuol dire, ad avere un comportamento coerente e rispettoso con la persona che parla, a prescindere che la conosca, che non la conosca, tutti dice così così. Per me la cosa più importante, da prescindere di chi lo possiamo fare, cosa non fare, ma un dito è andato d'accordo, un dito invece fa seguito, invece un dito, un attimale lo fa seguito, ma... Ma la fa culo, cazzo, la fa culo, dice cazzo di cose, cioè sono secondario, ma me l'ho preso. Positivo. Che ci può fare, dai? Purtroppo siamo tutti uguali, e quindi bisogna rispettarci uno con l'altro, per me prevale anche il rispetto, capito? Ci vuole rispetto anche se una persona non si conosce, che è dietro l'apparecchio. Anche se non la conosci di persona ci vuole un po' di rispetto, là, secondo me prevale anche quella legge lì. Però poi se ne è andato capo di bugnetta, ci sei? E la subirò meglio sì, parlate, io sono ancora a riprendere un pezzo con chi, meno che a me le musica, la matta delle varie. Allora mi pare scusate un attimino, mi pare una figlia, ma io ti dovevo pure Luca per avere un monti, per Luca i. C'è la Luca, così è, bravo, c'è la Luca poco fa, sì. E Luca per rispetto al barchino, lo vedo sulla camera che è bucato. Cazzo, la poco ci darò una mamma. C'è la Luca, poi vediamo un po' se Gianni è rientrato. Gianni, per me Gianni è già con la molla nel naso, con la camicia in bocca. Sicuramente io, scusando, non ho giocato attenzione alla gente che era. Vabbè, io ho messo mi appaggio un po' di televisione, a partire, la già attesa, posso comunque con quella figura è nato lo schermo. Figura di Dio, non so comunque che cazzo è gli strumentini, figura di Dio, non può passare. E vabbè, caso sei così, Galva, tanto siamo tutti buoni, sono a Loreto, Giallo, e come te si deve essere pochini, mi Loreto, ma che siamo a Crema. No, non mi può cosa sta lì, tu. No, io sono sopra, tranquillo, ma se mi la figura di... No? Ha passato un po' di corpo, c'è cioè, la mia gente che vera. Cazzo, ragazzi, ragazza, vai da... Bello, bello, siamo divertiti. Veramente, siamo divertiti veramente. Ne avevo proprio di bisogno, intanto, di fare così, così, improvvisati. E niente, tutto qui. Ogni cosa però c'ha anche la serenità più bella, c'ha un inizio e una fine, giustamente bisogna anche dire io faccio questo però non è che posso più fare più di tanto, pagosa, un male mi tocca liscio e non posso venire meno, capito? Se la sto presente. Ehi, Gianluca, ma non ti ha visto che stai buoni sotto Loreto? Ha visto zitti buoni sopra Loreto? E come metti che si dentro una trema, hai compreso, non ti hai visto andartini sotto al letto? No, adesso che sopra un letto, tranquillo, ma non sono più tanto se può capire da un letto io. Già sopra un letto sì. Mi sono bucato subito. Ho capito. No, credo che lì dove c'hai degli apparecchi, è cose bugiato. Non credo. Aio, capo del Bolognese. Qua Sonio, qua Sonio. Una canzone che non ho altro niente di meglio da fare. magia. C'è un bel microfono. Ci fa parlare con un come il dolcino. Ma che sei? Semplicemente sei. Capito? Non c'è problema. Guarda voi dice, col microfono, sì. Io mi ho tolto il microfono, lo sto usando, ma c'ho le cuffie col microfono, ogni tanto me lo metto e lo saluto. Allora ti faccio il computer incasinato, ma penso che quando a mezzanotte ce la faccio a terminare la, il programma di installazione, e così a posto, perché già mi sta facendo entrare e lo sto usando su WhatsApp, capito? Positivo, no? Avanti Gianluca. Dici, Gianluca c'è dormito. È andato a buttare. È andato a cagare. E boh, una cosa è andata a fede. Non mi importa fare qualcosa, no? È positivo, positivo. Va bene, mi senti con questa radiolina. Perfetto, ecco. Bene, era voi. Dammela. Va bene, non è entrato. Non è entrato. Solo che faccio il microfono. Boh. Non so se funziona, eh. È radio, è diluita in questa, no? Le dove è che 50-24. Quello che mi ha regalato Pinuccetto. Quello che hai fatto le connessioni tu, mi conta ne più tre. Sto andando. Lasciala lì, cattava pure, lasciala lì. Va bene, va bene. Dice poi te. Va bene, ci state benvenuta. Che la cantina, vedi tu lei. Ah, c'è un volume forte. Senti sta ragazza a cantare. Controlla tu a che punto è. Aspetta che rispondo a te. Vai, vai, non c'è problema. Avanti Gianluca. Gianluca. Luca c'è il numito. Ma che secondo me? Numito c'è. E meglio, meglio. Poi si riposa. Sta bene, sta andando, sì. Passaggi un po' più difficili. ovviamente. E aggiusta anche lui il computer. Ah, li aggiusta anche. Scappa. E allora già non tratta, va? Ma voglio che ti faccio un passaggio che fai. Vabbè, cazzo, è poco veloce, siamo. Cazzo. Aspetta, lui invia il PC. Ma. Ehi. Ah, vai, è trutta. Ha tutto riformattato. Ma buca tutta la molletta. Tutto ristallato, i programmi nuovi, ripuliti tutti i dischi, riformattati tutti i dischi, era tutto mia immondezza. Adesso già viaggio. Meglio, meglio così, così sei a posto. L'ho già detto su Facebook, apponi una foto, bravo. Mettici una foto di un microfono, di una radio, da che cosa. Fammi sapere che sì, ancora non l'ho cancellato, mi vanno là. Capito, ne ho due, fammi sapere, mettici una foto di un microfono, se non vuoi mettere la tua faccia, hai capito, una foto di una radio. E ci metto la foto della radio tua, che ce l'ho, la 757. Va bene, benissimo, così poi l'altro lo cancello. E dopo se non mi viene sonno, ma non ho più la sonno. Così provo il computer, se continua tutto e te lo faccio. È positivo, eh? Ehi, cazzo, se non è girata lì, ehi, non la buona, eh? E vedete perché hai provato il cellulare? Non te chiedo, non si intende, non è camarata a letto. Se si intendi? Aia, ti ho legato perché devi venire con me in camarata a letto. Ah, non uscire. Beh, bellino, adesso è abituata che io me la corco. Non è che cocca con lui, no? E allora che cocca, secondo te? Boh, non c'è la culla vicino a te. Sì, che ce l'ha, ma quel che con lui. E poi quando si addormenta ce lo metti alla culla. E beh, allora lui tu mi ha detto. Vabbè, anche lo facevamo così. Se no era un casino, e poi adesso è grandetto, hai capito? E la buona ormai non va di nulla, è da tra di noi. Allora, se non puoi fare l'amore? Ehi, io bisogna farlo alle ore più strategiche, capito? Stai ancora parlando? Scusa, saluta Claudio. Devo salutare anche lo straniero. No? Lo vuoi salutare o no? No. E te, non ti vuoi salutare, vieni, guarda la pincia. Vabbè, noi ma ti salutavo ogni volta, mi intendi, no? Scusa, voluto, sei pesante. Ma che grazie, mia? E te guida. Ah, certo, divido da niente. E ci cucati la chiara, che non ti cucati tu, usci cati lo letto. E adesso vado a scaldare il letto. Maria, ci stiamo guardando un po' di chihuahua sui canini. No, non uno. Non è troppo. Ma no, Daniele, lascia per. Stavo cercando anch'io un cagnolino, ma sono tutti i cani randaggi. Ma non è che non ce n'è, no, Cla. E che cosa, un pacco di denaro? E vabbè, era giusto per aiutare questi cani. Io uno me l'avevo preso tanti anni fa, un incrocio con un pastore tedesco, ce l'abbiamo al lavoro, ma è la mascotte. Capito? Cioè, sei già grande. Ehi, ma non ridere. È un bel grande adesso, però è bravissimo come cane. E Valero sta cercando il piccolino, hai capito? Anche se non è errato, non ha fatto nulla. Vabbè, io l'avevo preso piccolino, me lo sono fatto grande a casa, poi me lo sono portato al lavoro e ora guardo. Lui sta sempre con operazioni, impostazioni personalizzate di Internet Explorer, sì. Pubblica sì, lui aspetta quello che mi rende. Va bene, va bene. adesso non ascolto. Ci sentiamo, va. Saluta che ce ne stiamo andando. Ciao! Io, Spalviere. Ciao Maccio, un bacio grande e fai la brava, mi. Ciao, ma ci vediamo, buonanotte anche a Daniela e ci sentiamo domani, K.